Fumo erba giamaicana dentro un arghile, che viene da Istanbul e poi mi bevo un tè, che viene dalle Indie e trinco sake, giapponese mi ripiglio con un caffè, di quello messicano un mix di frappè, di mele polacche, fragole greche. Vai Frankie è cool, vai Frankie è proprio cool, vai Frankie fa trend, vai Frankie è molto trend, vai Frankie fa figo un bel po'. Però tu chi sei? Telefono cinese, parfum de Paris, macchina cieca ed orologio Swiss, una filippina viene ogni giovedì, il parrucchiere russo è di martedì, in inglese parlo in disco il venerdì e imparo lo spagnolo per puntare al twist. Vai Frankie è cool, vai Frankie è proprio cool, vai Frankie fa trend, vai Frankie è molto trend, vai Frankie fa figo un bel po'. Però tu chi sei? Ci hanno fatti a pezzi siamo ormai, siamo dei globalizzati mostri di Frankenstein, identità completa non l'avremo mai, però possiamo limitare un pochino i guai, saper da chi veniamo può aiutare assai, a capire perché e come di ciò che ti fai. Vai Frankie è cool, vai Frankie è proprio cool, vai Frankie fa trend, vai Frankie è molto trend, vai Frankie fa figo un bel po'. Però tu chi sei?